是银恶音。 chi, chi, che, che, gi, gi, je, je, cervo, cervo, cipresso, cipresso, valigia, valigia, orologio, orologio, chioccia e pulcini, chioccia e pulcini, camicia, camicia, giacca, giacca. 练习 cucina, cucina, cugina, cugina, cesto, cesto, gesto, gesto, cento, cento, gente, gente, mancia, mancia, mangia, mangia, ciglio, ciglio, giglio, giglio, celare, celare, gelare, gelare, cera, cera, sera, sera, cella, cella, sella, sella, cenno, cenno, senno, senno, cede, cede, sede, sede, pece, pece, pesce, pesce, cucina, cucina, cuscino, cuscino, certo, certo, scelto, scelto, faccia, faccia, fascia, fascia, Santa Lucia. Sul mare luccica l'astro d'argento. Placida è l'onda, prospero è il vento. Venite all'agile, barchetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia. 谚语 Proverbi. Chi non cuce buchino, cuce bucone. Chi pecora si fa, il lupo la mangia. Si bacia il fanciullo a cagion della madre.